e lo sputtanamento. Olè, e lo sputtanamento. Che cos'è? Forse voglia di orinare, se sa mai farsi capire. Ma la scarpa è già bagnata e la patta disagiata, già c'è fuori il pendolone, fischia il vento nel calzone. Olè, olè, olè, olè. E lo sputtanamento, olè, e lo sputtanamento. Che cos'è? Forse voglia di parare, abbracciare, non toccare. Ma è già largo il pantalone, è robusto e pendolone. Dico che è maleducato, perché l'hanno già sgonfiato. Olè, olè, olè, olè. Sputtanamento, olè, e lo sputtanamento. Che cos'è? È guardare il suo balcone, che si sa che non è in casa. Data via a fare una cosa, sul balcone c'è le rose e la luce ancora accesa. Poi c'è lui che sputa giù, e così è un bel momento. Olè, c'è lo sputtanamento. Olè, e così è un bel momento. Olè, c'è lo sputtanamento. Olè, olè, olè, olè, olè, olè, olè, olè, olè. Bella Ciao veniva dalla manifestazione di Torino di sabato scorso. Io ho bandito da questo palazzo l'arroganza del potere. Io non posso soffrire gli arroganti, coloro che hanno una carica, che danno il pugno sul tavolo, il padrone sono me. No, io qui quando li ho riuniti, il giorno che ho assunto questa carica, mi sono presentato così. Sì, c'è una differenza tra me e voi, non vi è dubbio. E la differenza è questa, che io ho delle responsabilità che voi non avete. Che cos'è che vi chiedo? Di darmi una collaborazione leale, sincera e fattiva perché io possa assolvere bene il mio compito e il mio dovere, che quindi affrontare bene queste responsabilità. Dal decreto del Presidente della Repubblica del 25 ottobre 1981, numero 737, sanzioni disciplinari per il personale dell'amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti. Titolo 1, disciplina, capo 1, principi fondamentali. Visti i vari articoli, l'appartenente ai ruoli dell'amministrazione della pubblica sicurezza che viola i doveri specifici e generici del servizio e della disciplina indicati dalla legge, dai regolamenti o conseguenti alla emanazione di un ordine, qualora i fatti non costituiscano reato, commette infrazione disciplinare ed è soggetto alle seguenti sanzioni. 1. Richiamo orale. 2. Richiamo scritto. 3. Pena pecuniaria. 4. Deplorazione. 5. Sospensione dal servizio. 6. Destituzione. Le predette sanzioni devono essere graduate nella misura in relazione alla gravità delle infrazioni e dalle conseguenze che le stesse hanno prodotto per l'amministrazione e per il servizio. Il provvedimento che infligge la sanzione deve essere motivato. Io vorrei che tutti quei mercanti d'armi provassero davvero il frutto del loro lavoro. Ci bastava un sasso con la punta, la lancia, poi la spada fino alla catapulta. Ci siamo fatti prendere la mano dalla mazza chiodata, uccidi il prossimo, che gran bella trovata. La polvere da sparo ci ha aiutato a aprire gli occhi. Cannone moschetto sparano sempre più colpi, a spremerci il cervello su come farci del male. Un genio se ne esce con la bomba nucleare, ma l'unica bomba intelligente, quella che ci fa fuori veramente, insomma che non lasci niente. Certo sono strane coincidenze, da quando esiste l'uomo esistono le guerre. Ma noi siamo italiani, brava gente, da Giotto alla Leonardo, le migliori eccellenze. Ma noi siamo italiani, brava gente, che vendiamo le armi quando nessuno si arrende. Serve la bomba intelligente che possa farci fuori veramente, insomma che non lasci niente. Intelligente, no, oh no, siamo buoni solo ad ammazzarci. Se il mestiere più vecchio del mondo fosse quello che pensate, forse potevano salvarci, e invece no, oh no. Undicesima puntata, Pillola Rossa, programma di musica italiana. Come avete sentito finora, Bella Ciao appunto era la strada di Torino sabato sera, e invece a Milano venerdì parte la fiaccolata e viene bloccato il traffico di tutta la circonvallazione interna. Sì, a Milano. A Milano, perché inizia quel circo mediatico ed economico chiamato Olimpiadi Invernali. Sabato, ma tra gli eventi c'è una manifestazione. Sabato Piazza Medaglie d'Oro. Sì. E niente, cosa si diceva delle Olimpiadi? Che alla faccia del Ministero del Made in Italy il catering è sloveno? Ma si diceva tante cose delle Olimpiadi, tra l'altro che il catering è sloveno, e si diceva che questa giornata di inaugurazione ha provocato il blocco del un po' della circonvallazione, ed ha provocato anche, cioè si parlava di scuole chiuse all'interno della circonvallazione della 90, poi non so se è stato revocato o meno questa cosa. Si parlava della circonvallazione bloccata di tutte, di molte zone che sono a ingresso limitato, questa a Milano. Intorno alla collinetta di San Siro non bisogna affacciarsi lungo il percorso, perché i tiratori scelti, appostati non si capisce dove, sono pronti a sparare a chi si affaccia. Spostandoci fuori dal circuito milanese e tenendoci sempre sull'Olimpiade, leggevo che invece hanno sospeso i pullman scolastici dalle parti di Sondrio, Trontana, dove fanno le Olimpiadi su in alto, e niente, chi abita lì vicino a scuola va a piedi, gli altri si arrangiano, insomma. Si parlerà di violenza in questa puntata, come potevate aver intuito, forse no, perché la stiamo pigliando larga. I patagarri ci hanno spiegato qualcosa con l'arma intelligente, e i Sibun voi là, non so, vanno avanti nel percorso? Vanno avanti secondo un concetto loro di di violenza. Di dissenso, diciamo. Sì, cioè l'affronteremo poi più avanti, che delle forme sono tante. Violenza. Voi Olimpiade là. È una. Sì, boom, voi là, Olimpiade e violenza. trovare una scusa per non andare al lavoro, ma ti secca a dire bugie? Sei molle d'acidia, ma anche tremendamente onesto? Niente paura, da oggi c'è Scusa Pronta, il servizio che costruisce scuse, impedimenti e giustificazioni in tempo reale su misura. Chiama subito il numero 610 610 610, i nostri operatori verranno incontro alle tue esigenze. Scusa Pronta, buongiorno, in cosa posso essere utile? Salve, dovrei andare al lavoro ma oggi non ho proprio voglia, come posso fare? Lei ha parenti di secondo grado ancora in vita? Ho una zia da parte di mio padre. Età? 76 anni. Allora lei ci invia una email con nome, cognome e indirizzo della signora e nella prossima mezz'ora un nostro agente provvederà all'eliminazione in maniera discreta e senza suo coinvolgimento alcuno. Il costo della chiamata dell'operazione le verrà addebitato su carta di credito. Pronto, direttore? Sì. Salve, sono Rossi dell'ufficio corrispondenza. La chiamo per dirle che oggi non posso venire al lavoro. Perché? È morta mia zia. Oh mio Dio, quando è successo? Scusa Pronta, il servizio che costruisce scuse, impedimenti e giustificazioni in tempo reale su misura. Chiama il numero 610 610 610. Scusa Pronta ti fornisce anche le prove e le risposte da dare in caso di domande insistenti e indagini approfondite. Nei locali della zona autonoma Milano, grazie al contributo della Club Unit, sta andando in onda l'11ª puntata di Pillola Rossa. Allora, in relazione alla canzone di prima mandata, Si Boom Vuoi Là, facciamo un piccolo riepilogo degli eventi di questa settimana, li diciamo subito. Un po' li abbiamo già detti, che riguardano appunto gli assemblamenti e le manifestazioni che ci sono in relazione alle Olimpiadi che iniziano adesso a Milano. Quindi ricordiamo che c'è sabato il corteo in Piazza Medaglie d'Oro, poi ci sono gli Autopiadi sabato e domenica, luoghi insomma che verranno comunicati successivamente. C'è venerdì invece, in concomitanza con l'inaugurazione che c'è allo stadio di San Siro, c'è la fiaccolata antiolimpica in zona San Siro, ma in via Marionio, che è quel gruppo di case popolari che c'è lì poco dopo lo stadio, insomma, nella sottile linea che divide i ricchi dai poveri. Attenti agli elicotteri di questi tempi. Attenzione, attenzione. E altri eventi, vabbè, Patrizia Laquirada suona la Cibellezza lunedì, e poi un po' di tuppa tuppa c'è al Conchetta sabato, con Attrito, Contrasto e Apoptosi. Ma sentiamo ora, grazie al lavoro dell'imperatore, diciamo, c'è chi sente il ventre molle della nazione, noi sentiamo la cistifeglia arrossata della nazione, grazie. Quella che graffia. Grazie ai contributi dell'imperatore. Sentiamoli. Diamo ora la parola a Sara sul tema degli scontri a Torino e sentiamo il suo punto di vista. Pau, pau. Allora, buongiorno caro Muki, partiamo subito con una pillola dell'Epifanio. A proposito di Torino, l'attualità, gli scontri che sono avvenuti in piazza e queste leggi speciali, già le parole leggi speciali con la memoria ci riportano in un periodo non troppo lontano, dove penso siamo stati catapultati tutti con queste due parole, leggi speciali. Dopodiché queste leggi dovrebbero servire per proteggere le forze dell'ordine dai cittadini, ma non erano i cittadini che dovevano essere protetti dalle forze dell'ordine. Qui siamo veramente a rincorrere asini che volano, siamo a un completo regime dove il cittadino diventa il nemico dello Stato e non più qualcuno da tutelare, proteggere e anche valorizzare. Eccoci qua, siamo infagocitati in questa macchina. Vieni! Hanno avuto paura, non so se avete sentito le voci, hanno avuto paura e si sono cagati sotto, non succedeva in Italia da decenni. E il fatto che ci sia uno sputtanamento generale di questa cosa, insultandola e denigrandola, è molto grave, perché i fatti della manifestazione di Torino è che 50.000 persone, pressappoco come Leoncavallo, presso all'incirca, sono scese in piazza. E per le decisioni prese o meno, quando hanno deciso di restare, scontrarsi, badabun cia cia, sono rimaste comunque 15.000 persone. Sono rimaste 15.000 persone che non ne potevano più. Quindi il discorso sulla violenza che si voleva avviare, violenza inutile, dannosa, insomma, già il fatto che loro abbiano paura vuol dire che la violenza è un'arma orizzontale che può essere usata da tutti, forse è l'unica cosa in corso, l'unico avvenimento che scuote. E non denigrarla perché ha un effetto reale e quindi non facciamo finta di niente, perché ha un valore questa cosa, un valore aggiunto rispetto alla violenza. Tutto il resto del mondo pratica la violenza tutti i giorni. Il mondo sta andando così grazie alla violenza che viene applicata da tutti gli altri gruppi, tutti santi e maledettissimi giorni. Vabbè, basta, ho parlato troppo. Bellissima questa, Gabri! Stupenda! Sti fasci di merda! L'unico fascista buono è il fascista morto! A rigurgita antifascista! Se vedo un punto nero ci sparo a vista! Mamma mia, lontano, lontano! Cammina, mannatillo lontano, lontano, chi stu malica cammina, mannatillo lontano, lontano, chi stu malica cammina, mannatillo lontano, lontano, chi stu malica cammina, mannatillo lontano. Bye. ricordassero tutto. Se era una persona mafiosa, se era una persona delinquente, se era un ribusciato, come dicono la stampa, eccolo. Maxi processo 1984. Ma hanno distrutto a me la vita e hanno distrutto il figlio. Le mandano a mio figlio, sono rimasta sola. E io sono solo, non aveva nessuno, solo questo figlio. Lui era per me e io era per lui. Quindi i signori, se sono oneste, sono uomini d'onore, devono dire perché hanno ucciso mio figlio. Non è vero quello che dice Sinagre, che ha sentito dire, perché tutto il resto l'ho sentito dalla stampa, che è stato ucciso perché conosceva Contorno. Non è vero che non conosceva Contorno. Ammetto pure che mio figlio conosceva Contorno. Ammetto pure questo. Non era il modo di uccidere mio figlio in questo modo, strangolarlo e metterlo nel coso. E se vogliono venirmi a uccidere ora, queste signore vanno a venire a uccidere a me. Me ne vado con mio figlio. Senta, signora, la corte rispetta il suo dolore, ma si calmi, perché... Signor Presidente, lei che è padre, vede se io mi posso calmare con questo figlio solo. Thank you. Ciao Pirlone, servo del padrone. Buongiorno. Ha prenotato? Ma io veramente... Avanti, si metta lì. Qui? Sì, lì, lì. Appena entrato ho capito che lei è un cretino. Perché sono un cretino, scusi? Lo so io il perché. Anch'io lo so perché. Che cosa c'è di buono? Il minestrone, perché? Non ci va? C'è qualcosa che non va? No, va bene il minestrone. E da bere? Solo acqua per lei. Corrente o alla spina? Ecco, e allora acqua. Acqua alla spina. Com'è buono sto minestrone. Un combustibile così lo fanno solo Santa Margherita Ligure. Pensi lei? Ecco il suo minestrone. Come non saprete, dalle parti di Rogoredo a Milano nelle ultime due settimane sono state uccise due persone, sparate. Se la seconda si può definire una sparatoria, la prima si tratta di un'esecuzione. Sembra che lo sparatore, lavoratore in divisa, fosse colluso con la vittima, comunque si conoscessero molto bene. E vabbè, per non scavare nel torbido abbiamo un inviato, probabilmente un nostro inviato della zona di Rogoredo, come si suol dire, che dovrebbe essere in collegamento telefonico con noi. Adesso proviamo a sentire. Sì, su questi fatti e sparamenti che si sono ripetuti. Nel secondo caso si trattasi di un cinese che avrebbe aggredito una guardia giurata con un bastone per poi prendergli la pistola e dopo sparare all'indirizzo. Sparare all'indirizzo di un blindato della polizia che stava passando, i quali hanno reagito con una mitraglietta e hanno sparato a questo cinese. Adesso non so se era in fin di vita o meno. Mentre invece l'episodio precedente della settimana prima, tipo appunto. Aspetta, che provo. Proviamo un attimo. Pietro, mi senti? Sì, ti sento. Allora, Pietro, chiamami Nutrio. Il Nutrio. Saluti. Sì, usiamo cuffia e saluto di qua. Pseudonimi, che è meglio. Ciao Nutrio. Viene meglio, assolutamente. Qui c'è Nettuno e Belluno in diretta su Radio ZM, Radio ZAM. Quindi abbiamo chiamato il Nutrio. Insomma, per un parere un po', diciamo, dalla strada, inquietante. Un approfondimento dalla strada. Ci dica il nostro inviato, ci dica. Allora, cosa... parlavamo. Tu ci senti, sì? Sì, vi sento, okay. Però ho staccato la radio, se no fa contatto. Bravissimo. Allora, abbiamo parlato di Rogoredo, abbiamo parlato che, insomma, dalle ultime notizie, insomma, sembra che il proiettile che ha sparato il poliziotto era il pusher. Fai parlare l'inviato? No, ci abbiamo un inviato, dai. Allora, vogliamo, gli hanno sparato perché per metterlo a tacere. Allora, l'impressione sembra questa, però abbiamo appunto un altro parere. Ma l'idea, conoscendo il posto, io lo conoscevo un po' di anni fa, quando era forse più vicino alla stazione di Rogoredo, sotto le tangenziali, che era proprio un posto dantesco, e era evidente che ci fosse una contiguità fra polizia, piccoli spacciatori, polizia stradale, perché io, per quello che ho visto, la gente si facevano portare, gli spacciatori si facevano portare il pranzo da Uber, dalla tangenziale, però... Parliamo di posti bazzicati da centinaia di persone contemporaneamente, non una cosa che passa su... Ma, cioè, la... sì, io non ho mai visto centinaia di persone, però sempre una decina, una quindicina di persone, perché lì, cioè, è un po' come una zona di controllo, cioè, loro sanno che i tossici, quelli all'ultimo stadio, quelli un po' che non hanno più una macchina, che gli hanno tolto un po' tutti i mezzi di sostentamento, non possono andare in giro, perché la questione, secondo me, diciamola chiara, cioè, non è che a Milano spacciano solo a Rogoredo, cioè, ci sono centinaia di posti di spaccio per persone con la macchina che non te lo aspetti, che magari sono in ufficio alla mattina di fianco a te, e quelli hanno tutti i loro agganci a certi orari e vanno. Poi ci sono si vivono tossici, quelli che non, ormai vivono alla giornata, e che quindi alla mattina si svegliano, vanno vicino a Rogoredo a raccattare i soldi e poi entrano in questa specie di supermercatino. Sì, diciamo che è in periferia, è vicino alle tangenziali, spesso i movimenti sono fatti un po' da, sì, intorno, sotto, sì, le tangenziali. Dite che sia stato, cioè, come cioè, questa cosa avviene anche negli Stati Uniti di Trump, cioè, che nelle città grosse chiudono tutti questi disgraziati, che poi questi qua negli Stati Uniti vanno a fentanyl, che sì, è un ghetto, sinceramente non conosco personalmente, però ho avuto un amico che è morto di fentanyl, che è stato uno dei primi, che non so dov'è, che se lo fosse procurato ai tempi. Eh sì, infatti è abbastanza, credo che tu lo conosca ai tempi, sì, sì, sì, del nome. Certo, un ghetto dantesco praticamente. Ma vogliamo tornare un attimo alla nostra notizia, questo sparamento, che cosa possiamo raccontare? La notizia, in realtà, quella che è uscita oggi, è che le prime indagini, insomma, è venuto fuori che la persona che si è beccata la pallottola in testa era girata. Ah. Quindi, ma il secondo, che la prima... o il primo? Com'è? Il primo, quello che ha detto che ha tirato fuori la pistola, o il, sì, secondo, sì, primo. Morto? No, no, il primo, stiamo parlando del primo. Cioè, e... quello che hanno detto che aveva tirato la pistola, fuori salve, la pistola, ed era girato. Che aveva, sì, una pistola salve, sì. A salve, ed era, cioè, è adesso... stato sparato praticamente alle spalle. Cioè, adesso quasi viene alle fuori spalle, che era alle spalle, ah, e ah, che il primo, cioè, quindi non aveva neanche la pistola puntata, non come la dicono, e che il primo pensiero della polizia sia stato a chiamare un'altra volante e non il 112 per accertare, cioè non, se non 118 morto. Esatto. Ma io ti dico, in quei luoghi lì ho visto, ho avuto esperienza di poliziotti che non sono proprio, sono dei borghesi che potrebbero essere benissimo dei delinquenti, cioè delinquenti, persone che scarpe, magari si mettono un po' vestiti un po' logori, e comunque se ti fermano ti chiedono, è capitato che mi chiedessero di dare informazioni, cose così, però... Certo, voleva la delazione, se serpico, proprio. Cioè, se uno vuole poi guadagnare dei soldi sul movimento che c'è lì, possono tranquillamente prendere i tizi che poi quelli che sono lì sono dei galoppini, non è che sono quelli che guadagnano più di tanto. Sì, certo, però, tra l'altro il poliziotto... Però devono pagare magari la loro tangentina, so. Sì, pensiamo anche a questo, anche però perché... Non posso dire di aver visto personalmente cose così, però di aver avuto qualche esperienza con sbirri che non erano proprio normali, sbirri Ligi al normalizi. dovere. Ligi alle leggi. E, no, infatti la No, notizia. non tanto ligio alle leggi, La ecco. notizia collegata infatti era che il poliziotto, che adesso è comunque, c'è cioè comunque delle indagini in corso, visto che ha ucciso una persona, avesse comunque, c'è cioè un procedimento dell'anno scorso in cui quello che ha dichiarato su un arresto non corrisponde alle immagini che poi hanno acquisito gli inquirenti, quindi Che c'è lì è la una questione che falsa probabilmente testimonianza hanno per incastrare sbagliato, una non persona. credo Ma proprio come che ora, no? volessero ammazzarlo, cioè avranno perso il controllo di una situazione abituale, perché cioè, secondo me lì degli sbirri vanno e vengono come i tossici. Cioè. Sì, però sembra che si conoscessero anche loro, questi due, Esatto, cioè che si cioè, conoscessero da prima l'impressione di che questo ho sempre episodio dello avuto. sparamento. Ma anche in altri luoghi, è che gli sbirri in un modo o nell'altro fossero, cioè, appunto, in queste zone d'ombra dove Ci si non si conosce. capisce più chi è bianco e chi è nero, ma è tutta una zona grigia. Poi, al di là del, come io sono più poeta che altro, cioè, è proprio un posto grigio dove tutto, cioè, tutte le. Cioè, come dire, al buio tutte le vacche sono nere, grigie, no? Cioè, Sì. non è che si capisce più tanto dove sta la legge, dove sta il delinquente, cioè, perché ci sono gli spacciatori, sono ragazzini che sono solo lì a fare il lavoro stipendiato, sono quelli che poi sono tenuti a dare i soldi e quindi a rimetterli poi ai loro datori di lavoro, che non so chi siano, qualcuno ci sarà, e sbirri che probabilmente ce ne sono alcuni che Beh, se non da sono, queste se non so, situazioni a un se non certo sono solo punto non complici si accorgono loro, neanche loro che di passare. se non sono solo complici loro nel caso Cioè, che ne non è che approfittano, non li sì, incolpo per l'omicidio, a me sembra. sicuramente tutto il Cioè, sistema ne è complice, visto che permettono questo stato di cose, se no non ci sarebbe, figuriamoci. Dicevamo che alla luce del sole e dell'elicottero, quindi non so, Sì, ma ragazzi, cioè, andiamo ci saranno avanti. anche le telecamere. Cioè. Salutiamo il nostro inviato. Figurati che anche su Google Maps, che oggi ero andato a vedere quella zona lì, andando nella vietta, quella che quando esci dietro vai a destra, dove c'è quel famoso cancello dove entri, ci sono gli sbirri che Adesso non so bloccano il perché io ai cancello. tempi si usciva, si andava a destra, ma sentivo l'altro giorno qualche trasmissione di Rete 4 che si sono spostati più La verso droga a Milano è rogo redo. Dan Donato. Più verso Comunque San lì ci sono Donato. gli Eh vabbè, svincoli delle d'altronde tangenziali. lì c'è l'Arena Santa Giulia, quindi adesso devo partire le E vi navette. mandiamo la metastasi sociale coi Va bene, Rabast, ringraziamo ragazzi. il Nutrio, ti Grazie al salutiamo nostro che. corrispondente, al nostro inviato. Ciao No, Nutrio. io ho inviato non più. L'ultima volta dove c'era da scavalcare un cancello 10 anni fa, mi sono incastrato nel cancello. Se non c'era un altro tossico, ero ancora lì, cioè appeso al cancello. Vedi, Vabbè, solidarietà. bella ragazzi. Ciao Nutrio, grazie. Ciao. Questi dei ragazzi che avevano fermato un linciaggio di un drappello della polizia che era riuscita a passare attraverso una piazza della città, passare perché aveva avuto permesso dalla cittadinanza, e visto che rimaneva qualcuno su un angolo è partito il primo drappello per linciarlo, e grazie all'intervento di svariati ragazzi, in realtà pochissimi, verbalmente e con l'azione, senza, hanno allontanato sto drappello, e sentiva la ragazza che finiva di dirgli due cose a proposito di violenza, per l'appunto. A proposito di punti di vista, poi, perché cioè, qui i media propongono un punto di vista a cui si è inchinata anche tutta la parte politica, sostanzialmente. Questa, sì, sì. Io mi ricordo, tuttora lo fanno, mi ricordo per l'Ucraina quando ha fatto il colpo di Stato, quella che chiama la rivoluzione arancione, c'era una foto con i manifestanti con le pistole in mano, i cassonetti incendiati, tirava la polizia, e il Corriere della Sera titolava Patrioti Ucraini. E c'era tipo il TAV nello stesso giorno da noi in Val di Susa, e c'erano dei ragazzi che lanciavano delle pietre contro la polizia, e lo stesso giornale tipo terroristi italiani. Sarebbe bello, ecco, capovolgere la lettura e scrivere patrioti italiani a Torino e dichiararlo, e terroristi la controparte, quella armata. Ecco, scusa, poi per chiudere, queste sì. 15.000 persone solo a Torino, ma adesso escludendo i 50 e più mila che poi hanno deciso che faceva freddo e volevano andare a casa a riposare, non sono rappresentati da nessuno in Parlamento. Nessuno che ha detto sì, c'erano almeno 15.000 persone che si erano rotti i coglioni, perché sta andando tutto allo scatafascio. Voi siete dei ladri, assassini, stupratori, bestie, ignoranti, e state rubando tutto quello che ci rimane. E no, non c'era nessuno. In questi casi sembra una coda. Noi abbiamo mandato apposta, dopo il corteo, questa puntata, questo DPR di Pertini, che diceva appunto che l'abuso di potere è a tutti gli effetti un abuso e va punito. E quindi in questa situazione, che in questa manifestazione che si è concentrata sul poliziotto che è stato accerchiato dai ben manifestanti, che è stato poi ricoverato in ospedale, lo diciamo che è uscito il giorno dopo, lo vogliamo dire che è uscito il giorno dopo? Poliziotto ferito a morte, tentato omicidio, esce dall'ospedale un giorno dopo. La Juve pensa di ingaggiarlo. Questa era una battuta del... del Fatto Quotidiano. Alberto Radius nel ghetto, rifatto poi più avanti dai Fratelli di Soledad, se non ricordo male, vero? Ritornando su la manifestazione, perché chiamiamola manifestazione, non i disordini, la manifestazione, manifestazione che c'è stata a Torino, cioè la lettura che ha dato la maggior parte, insomma, dei giornali e delle televisioni sembra strettamente collegata. Ci sono un po' di fatti che collimano in questi giorni tra i fatti di Rogoredo, e quindi ben due fatti di Rogoredo, tra la manifestazione a Torino, tra gli AIS a Milano e tra il referendum che dovrà esserci, perché qua c'è anche un referendum che vuole andare a intaccare la Costituzione a marzo, se non sbaglio. Esatto, perché la pancia del paese, insomma, quella, il ventre molle, il ventre quello molle, che si diceva, bravo, prima, bravo, l'altro, bravo, il ventre molle. Il ventre molle del paese in questi giorni sostanzialmente appoggia ovviamente la propaganda mediatica, e tutto ciò fa sì che, visto che sono stati arrestati, fermate tre persone che poi sono state rilasciate perché ovviamente censurate, non il fatto non costituiva reato, e poi insomma la procedura è quella sostanzialmente, cosa succede? Succede che la pancia molle del paese ha dato la colpa ai magistrati, come al solito, e di conseguenza questo referendum cade proprio a fagiolo relazionato alla manifestazione. Allora, qualcuno stava dicendo che questa è stata sicuramente l'occasione, la gocciolina che ha fatto traboccare il vaso, però era già in programma la sospensione dei diritti civili, con l'eventuale compimento, col decreto legge che vorrebbero sviluppare, ci sarebbe l'incapacità di manifestare se non si possiede una somma in denaro. Allora, non mi ricordo che articolo della Costituzione è, però dando l'impossibilità a chiunque di manifestare liberamente, come sancito dalla Costituzione, bloccando questo che è uno dei principali articoli, praticamente vengono ad essere sospesi i diritti civili. È un po' una dichiarazione di guerra, nel senso, è uno stato di guerra quando annulli i diritti civili, un po' come diceva la cistifeglia arrossata della nazione. Prima sentivamo l'imperatore che tramite i suoi inviati ci faceva avere notizie delle varie regioni di questo corpo, no? E appunto ci dicevano siamo arrivati a dei livelli che è un paradosso, che il cittadino è considerato come nemico, cioè nell'ultimo decennio soprattutto il cittadino è stato considerato come un nemico, a quel che rimaneva della parte pubblica da rubare, sfruttare, succhiare. Ora non è rimasto più niente, rimane la vita e il lavoro del cittadino, che questi stanno prendendo in ostaggio per succhiare anche questo. Quindi veramente, come dicevano da Firenze, veramente succhiare la vita cioè non è più è proprio il paradosso, il cittadino è un nemico al posto. Questa è una dichiarazione di guerra, dopo c'è solo lo schiavismo con capito, sì, cioè, poi era stato questo è uno stato di fatto poi di guerra. Più volte proposto una specie di fideiussione sì, relativa alla vendita dei figli e delle figlie, relativa e a fare la manifestazione, ovvero che tu dovresti pagare, mettere avanti dei soldi in relazione ai danni che potranno essere fatti. Se sei nulla tenente non puoi mettere niente, non potrai mai manifestare la vita e devi morire. Il primo passo di una dittatura legittimata è questo. Già viviamo in un regime, e lo sapevamo tutti, che ora diventi una dittatura legittimata diventa uno stato di guerra. Allora, se vogliamo svegliarci ora, questo mi sembra un momento buono, perché la risposta di tutto lo stivale è proprio quello della scarpa. E esatto. Quindi che tira lo scarpone, che dovrebbe tira tornare il pedatone dovrebbe tornare. E quindi veramente, visto che il peggio del peggio che continua ad andare avanti, ormai non rimane più niente, veramente li spaventa che il popolo pigli finalmente coscienza di difendere quei pochi diritti civili che sono rimasti e si rimponga per autodeterminare le proprie scelte, la propria scelta, cioè adesso sto parlando forbito, sì, ma sono, sono strategie, chiaramente sono strategie, poi... però adesso, visto che la paura che hanno avuto si sentiva dalla registrazione, sono andati in parla anche questa condanna unanime, vuol dire che non c'è nessun politico che rappresenti questa cosa, allora bisogna legittimare sto fatto e dire guardate che una parte della popolazione veramente non ne può più, e non sono certo quei 15.000 che sono rimasti lì a Torino, non penso proprio che siano certo quei 15.000, ma poi sono cazzi loro venire a contare quanti della popolazione, solo che basta, uno stato di cose esistente che non può più andare avanti. Capiamo come moderare sta cosa, nel senso come affrontarla, tutto questo è tutto un valore aggiunto, tutto quello che è successo è... può essere solo meglio, vediamo di dargli un senso, appunto come spiegavano in Nepal che andavano a casa a prendere l'assessore Tancredi o il fu sindaco Giuseppe Sala, ex sindaco, questi abbuffini, ladri, criminali che rubano bene pubblico, andare a fare manifestazioni, 10.000 persone, 15-30.000 che vanno a casa a prendere il sindaco, ci hai rubato tutto e risputi tutto e leggiamo ragazzi, un altro. Qui a Milano, Torino è stato a scattasuna, qui a Milano... le manifestazioni adesso ci sarà sabato per quel grande ladrocinio che sono state le Olimpiadi. È stato Leon Cavallo prima di Ascatasuno e via dicendo. Vabbè, sabato appunto c'è la manifestazione. Che dire, cioè il clima è questo, l'importante è dare valore alla lotta, valutare, dare valore alla lotta e valutare la lotta. Sono questi sono i Black Sangue. Tau. We'll be right back. comunque stanno chiuso i centri sociali, hanno chiuso Leoncavallo, questo a Torino, ma Causa Found invece resiste a Roma, a Firenze. Perché non chiudiamo Causa Found? Allora, adesso va bene questa ripicca da bambini dell'asilo, questi per quello, e come provocazione ci sta tutta. Ricordiamo un secondo chi sono loro. Loro, il governo che ha appoggiato il governo in Siria, quello di oscurantisti che uccidono la gente nel coso. Loro sono quello che va ad abbracciare il Trump e che manda le armi in Ucraina. Adesso mi sfugge altre cose perché mi sto così un po' alterando rispetto, ma loro sono quello che poi hanno contribuito con le armi spedite da cazzo questo paese al genocidio delle 200.000 persone che c'è stato in Medio Oriente, in Palestina, che comunque spediscono armi anche di là verso l'est, che continuano a fare morti in barba. Questi soggetti qui che disseminano, grazie alle forze dell'ordine che hanno organizzato loro, un morto a settimana sparato per quanto riguarda Milano, ma comunque violenza, detenzione, abuso, il peggio del peggio, questi sono loro. Oddio, hanno tirato una martellata a un poliziotto. Ma guarda te, è questo il problema. Sono loro, eh? Sempre loro. Nonna, c'è fuori un motocarro rosso. Sarà di qualche cretino. Vi leggiamo le temperature minime di alcune città europee. Mosca. -6. -6. Capo di Buona Speranza. +28. +28. Santa Margherita Ligure. +12. +12. Pechino. +7. Non pervenuta. Esatto, non pervenuta. Si tratta proprio di un cretino. Quando sento certi discorsi mi va il minestrone al cervello. Se non vai via entro 20 secondi ti spacco la faccia. Quant'è il conto? 9.008. Mi chiami il direttore. Pici! Oh. Bella, bella cacchina. Sure. Allora, diamo gli ultimi eventi della settimana, quelli che sappiamo. Il riso dei cavalieri, riflessione per una risicoltura sostenibile, con proiezione filmato Cavalieri delle Risaie di Nocciola. Allora, il 5 febbraio 2026, ore 20:30, presso Teatro Giuseppe Verdi di Castelnuovo, Il riso dei cavalieri. E ci sarà anche il film I Cavalieri delle Risaie, un racconto tra acqua, agricoltura e biodiversità. Della serie delle buone notizie. Iniziative, c'era forse... delle giardiniere, no? No, questi sono altri gruppi, altri collettivi che fanno altre cose nella provincia di Milano. Invece per quanto riguarda Parco Piazza d'Armi e le giardiniere, c'è Piazza d'Armi a rischio di un progetto speculativo. Torri Alte, migliaia di nuovi residenti, ente pubblico che agisce come un privato, l'associazione Parco Piazza d'Armi e le giardiniere denuncia un intervento devastante per natura e collettività, senza alcun beneficio reale. E andremo avanti, sono temi che approfondiremo in ogni caso e non molliamo nessuno. Poi magari parleremo più avanti anche, che non l'abbiamo affrontato in questi due... le ultime due puntate di Vaiano Valle e quello che vogliono fare a Vaiano Valle. E detto questo, tra poco allora c'è una rubrica di poesie nuova, appunto, che comunque sarà praticamente a chiusura di Pillola Rossa. E poi c'è Arreboar con Ulisse, che è ritornato nell'anno nuovo. Arreboar. I livornesi dicono Arreboar e qui diciamo Arrebu. Vabbè, qui mi criticano tutti perché faccio un po' di poesia, licenza poetica, fotte sega. Allora, no, è l'intervento, l'anno nuovo di Ulisse. Per lui l'anno arriva un mese dopo, è una cosa, si vede che vanno in letargo a Livorno, non so. Però hanno una sospensione di un mese. E quindi la prima puntata di Arebu dopo di noi. Sì, preceduto dalle poesie di Valentina. Ci vediamo noi la prossima settimana, mercoledì. Dicono tutti così. E ricordiamo sabato. La manifestazione. Senza gubbio di ombra. Due cose le abbiamo dette per quello che dovevamo dire, no? Su Torino Olimpiadi sul clima che c'è. È un po' tutto correlato, c'è il clima metropolitano e il clima atmosferico. Esatto. E detto questo, siamo un po' in anticipo, però cioè sei in anticipo, qui stavamo a straparlare così liberamente. Vabbè, vi salutiamo, dai, questa è Valentina e poi c'è Arebu. Erano tutte palle, vabbè, ma vedrete voi. Ciao. Le 22 spaccate. Ciao a tutti, saluto gli ascoltatori di Radio ZAM. Lasciatevi trasportare da questa nuova onda poetica per ascoltare i miei scritti del giorno. Ho preparato una sequenza che ho intitolato Collezione Dark. Quindi immaginatevi atmosfere romantiche sotto il velo della notte, sensualità di corpi tra lenzuola di seta, vampiri e pipistrelli che liberi sfiorano i confini della luna e il collo delle donne, la voce degli amanti di spettriche rinascite. Benvenuti, buon ascolto, Valentina Cavera. Collezione Dark. Ci sono parole che fuoriescono solo di notte con il buio, si ingarbugliano tra loro e soffiano dietro le orecchie, lettere solitarie che da lievi si riproducono in serie e si ingrandiscono nel boato di una bocca. Quando batte il rintocco della mezzanotte, le persone sanno dirsi cose mai dette, pronunciano il nome dell'altro come se fosse la prima volta, la lingua veste il silenzio di rosa. l'amante. Tu, luna nera nella sera, ombra e sguardo in cui riluce l'oscuro di spettri e riflessi, si dice palesi la morte cieca tonalità di colore, in vero dal profondo discendente è prima vita in cui nasce il grido, il fuoco di una brace che ancora sento sulla pelle. La vanità della notte. Parole di velluto rosso sorvegliano il mio collo lungo d'amore. Vampiri assetati che sfidano l'eternità, le tue frasi sospirate nel buio. La catarsi è sole sulle mie palpebre, il sogno tana inconscia. Pillola rossa si ascolterà mercoledì. Zam, zam.